stare indifferente ed aspettare l'inverno come la tranquillità. Cos'è normale? Piacere, va sempre tutto bene. Essere onesto, non so se mi conviene non sprecare mai niente, neanche la sincerità. Cos'è normale? Lasciarsi e poi dimenticarsi, giura mio amore, e non dovrò più odiarti senza paura di questa normalità. E non pensare domani è solo un altro giorno, resta sospeso, confuso come un sogno che ci appartiene, come la felicità. Cos'è normale mentirsi su ciò che non va, comprare cose che non usi solo per vanità, prendere tempo per scappare dalla verità, ma quante cose che non dici. Cos'è normale inventarsi un'altra realtà, ogni sapore, ogni colore, la mia estate in città, girare intorno alle parole, la tua specialità, ma non c'è niente che ti piace. Cos'è normale lasciarsi e poi dimenticarsi, vattene adesso e non dovrai più odiarmi senza paura di questa normalità. E non pensare domani è solo un altro giorno, resta sospeso, confuso come un sogno che ci appartiene, come la felicità, come la felicità. Cos'è normale? Lasciarsi e poi dimenticarsi, giura mio amore, e non dovrai più odiarmi senza paura.